discussione fuori controllo. Fuori discussione fuori controllo. Questo è l'intro del nuovo album di DJ Trivellato. Intro del nuovo album, fuori discussione, fuori controllo. C'è anche la mia foto nuda in copertina.